La verità, diciamo, della serra è, diciamo, è codificata, è nascosta. Quindi partiamo con il nome della nostra casa, la terra. Quindi in inglese è hearth, e è molto simile alla parola heart, che è cuore. E non credo sia una coincidenza. Credo sia il significato, quindi la nostra casa. È il nostro cuore, la terra. Dov'è il cuore nel nostro corpo? Al centro. Quindi la terra è al centro. E per mettere in altre parole, sempre riferendomi, come sopra, così sotto. E la terra è al centro. Quindi sappiamo che la terra è al centro. Quindi sappiamo che il sole non può essere al centro, come nel modello eliocentrico, che il sole è al centro e noi gli giriamo intorno. Diciamo che nei chakra, nel chakra viene rappresentato con il verde, il cuore, la parte, diciamo, centrale, e il verde è il colore della nostra casa, la terra. Durante, diciamo, la storia ci sono un sacco di personaggi che hanno, diciamo, posto la terra al centro, e viene chiamato il sistema geocentrico, il modello geocentrico, con il sole che gira intorno alla terra. E è stato più o meno fino a all'incirca fino a 500 anni fa, dove un prete ebreo chiamato Copernico, Nicholas Copernicus, ora questo è un po' complicato, però ci si prova. Quindi il suo nome è, diciamo, codificato, Nick Copernic, praticamente dicendoci il simbolo astronomico, astronomico, sì, per Venere è il solito simbolo usato in biologia per definire la femmina, un circolo con una piccola croce sotto. Il simbolo di Venere rappresenta inoltre la femminilità, e nell'alchimia per il metallo, per il rame, che veniva usato per gli specchi nell'antichità. Il simbolo della femminilità di Venere viene rappresentato, viene considerato spesso per diciamo, il riflesso diciamo, il riflesso del senza Dio. E spesso viene anche, se andiamo a vedere inoltre la superficie di Venere, viene spesso usata come se fosse Venere, come se fosse la superficie di Venere, come se fosse un po' l'inferno. Quindi Venere rappresenta l'inferno. Quindi Nick Hopper sta per Venere, Nick Copernic quindi rappresenta Satana, e Venere, Nick rappresenta Satana, e Venere rappresenta l'energia, e quindi Lucifero. Quindi sappiamo a chi era legato Copernico. Quindi ci sta praticamente dicendo, il suo nome ci sta dicendo che è una persona cattiva. Quindi perché dobbiamo credere alle sue parole? Di Copernico è arrivato con la teoria che il Sole fosse al centro. Sappiamo che era, diciamo, non voleva diffondere questa cosa perché sapeva che non era vero. Troviamo che lui dice, no, che i suoi ragionamenti sono incomprensibili, non sono veri, non è reale. Quindi se andate a guardare la scienza dietro il sole, dietro il fatto che la Terra gira intorno al sole, non ha niente a senso. Quindi se andiamo a cercare le immagini di Copernico, ce ne sono alcune interessanti dove dove veste di arancione. Orange is the new black, è il nuovo nero. L'arancione è il colore di Halloween. Halloween è il giorno, diciamo, dei satanici, dei satanisti, diciamo della mano sinistra. E anche gli occhi, lo sguardo, in che direzione sta guardando? A sinistra. Vi sta dicendo che è una mano sinistra. Quindi nella mitologia nordica, se andiamo a vedere dov'è la terra, nella mitologia nordica è al centro. C'è l'albero della vita, rappresentato anche nella Kabbalah, e consiste in 9 mondi per 3 rami ognuno, a 3 livelli diversi. Quelli sopra la terra vengono chiamati Asgard o il paradiso, e la terra viene chiamata Midgard, Mid perché è nel mezzo, la terra di mezzo, e sono gli unici due, diciamo, posti che vengono che contengono la parola Gard, che sta per giardino, Gard, Garden, giardino. Quindi Asgard è il giardino superiore, Midgard è il giardino di mezzo, come il nostro cuore, che è nel mezzo. Quindi sono 9 mondi su tre piani, praticamente. Quindi 9 e 3, quindi diciamo i satanisti usano o 93 o 39. Quindi il sole, ci dicono, è 93 milioni di chilometri lontano dalla terra, 93, ma non lo è, molto più vicino. Ma usano il 93, credo, per 93 per descriverlo com'è davvero, come ho detto, della codifica, no? Sono 9, diciamo 9 piani o 9 diviso in tre mondi su tre piani. So che magari non l'ho spiegato bene, non lo spiego bene, però come ho detto, sono tutte cose che trovo in altre lingue, e per me non è facile, soprattutto perché è una, diciamo, non è tanto che sono in questo argomento. Come ho detto, si scava e si arriva a una verità. Forse non è così, non è una verità, però credo che mi avvicini, almeno me. Poi, se andiamo a vedere ogni mondo rappresentato, ognuno di questi 9 mondi è contenuto in una sfera, ed è piatto, è contenuto in una sfera. E se andiamo a vedere, c'è la Terra nel mezzo con il Sole e la Luna, e diciamo l'albero che gli passa in mezzo. Quindi abbiamo Copernico che ci dice che, perché cerca di convincerci che il sole è in mezzo e non la terra, perché sia lui che quelli che gli sono dietro non vogliono che pensiamo che siamo speciali, anzi tutto il contrario. Invece di essere al centro della creazione, siamo un caso. Quindi diciamo che se siamo al centro della creazione, praticamente come se davvero la Terra è quello che è, diciamo, è la prova, un po' la prova se ci fosse Dio, e quindi ci allontanano da questa cosa qui, e cercano di farci credere che siamo solo un piccolo granello di sabbia in mezzo a milioni e milioni, miliardi e bilioni di pianeti, che non siamo significanti, non siamo importanti per nessun motivo, che dobbiamo seguire la scienza e mettere l'uomo al posto di Dio, prendere il posto di Dio, che possiamo essere distrutti in qualsiasi momento, da un meteorite o da un qualcosa e si trova nello spazio in cui vaghiamo a incredibili velocità. Vogliono che ci convinciamo del fatto che siamo fragili, che siamo impotenti, piccoli, insignificanti. E non è così. La gente dice Nibiru arriva e ci distruggerà. YouTube è pieno, internet è pieno di video del genere. Il secondo sole, o altre cose che si possono trovare, ma sono cavolate, servono solo a farvi provare paura, a far provare paura alle persone, un po' come tutti gli attentati terroristici che fanno vedere in televisione, servono a fare paura, paura come forma di controllo, perché poi chiediamo protezione, cerchiamo protezione in quelli che ci possono proteggere. Chi è che ci può proteggere dal mistero e l'infinito spazio o i terroristi nascosti ovunque? Il governo, i governi. Invece che, diciamo, controllare o avere il controllo tramite l'amore, che è una cosa più, diciamo, naturale, tramite usano la paura. Fanno tutto quello che possono per metterci in uno stato di paura. Quindi il cuore è da dove viene l'amore, e è il chakra più potente, è quello che provano a controllare. Cupido è conosciuto come il dio dell'amore, anche come un eroe. Eros. Eros è anche un anagramma per Rose, rosa. La rosa croce usa una rosa al centro di una croce come simbolo. Questa croce rappresenta l'amore e il cuore. E sappiamo che il cuore è la terra. Quindi ci mostra nel simbolo, ci mostra la terra al centro della croce del nostro mondo. Nascondono il nostro mondo nel simbolismo. Se non volete credere che la Terra sia al centro, lo potete direttamente osservare per voi stessi. Andate in un campo di notte e guardate le stelle e vedete che si muovono intorno a un punto centrale, e il punto centrale è chiamato North Star ed è l'unica stella che non si muove. Quello è il punto centrale del nostro mondo. Quindi The North Star è al centro, e quindi è come è l'occhio che vede tutto, che è al centro. Quindi l'occhio che vede tutto è la stella polare, praticamente. Quindi è un simbolo, diciamo, buono. Ma l'hanno preso e invertito. Diciamo, i luciferiani, quelli che seguono la strada di Lucifero, le mani sinistre, fanno pensare a tutti che sia un simbolo cattivo. Però ci sono diciamo, c'è la strada sinistra e la strada destra. Quindi, quando si coprono l'occhio destro e lasciano il sinistro aperto, quello è un brutto segno, ma generalmente questo simbolo dell'occhio che vede tutto è un simbolo buono. Rappresenta la stella polare che è sempre aperta e guarda sotto di noi, guarda verso di noi, e non si chiude mai. La stella è sempre una luce. Il nord è anche conosciuto come il punto, diciamo, magnetico, dove tutti i compassi, dove tutte le bussole puntano verso questo punto qui, verso il nord. Quindi, quanto è davvero speciale il centro del nostro mondo. In Game of Thrones, la serie televisiva, abbiamo il gioco del Nord. E Game of Thrones lo possiamo abbreviare come GOT, GOT, è la parola germanica per Dio. E nella serie si vede questo gigantesco muro di ghiaccio, e rappresenterebbe il nostro mondo, il muro di ghiaccio che ci circonda, che tiene le acque, che viene rappresentato anche nell'Ouroboro, come nella Storia Infinita, però lì abbiamo il doppio Ouroboro. Finiamo qui per ora, questa era la seconda parte, spero vi prenda come ha preso me. E grazie a Radio Big World, grazie di essere stati con noi, con me, e dall'Arcadia è tutto. Ciao, alla prossima.